non potevamo fare diversamente. Sia noi come Giulia giornaliste, ma il comunicato lo abbiamo fatto insieme a tutte le donne dell'informazione, le commissioni pari opportunità della Federazione della Stampa, dell'Ordine dei giornalisti e dell'USIGRAI. La questione è che su temi delicati, di vitali in maniera reale, concreta, sto proprio parlando di ciccia, che vanno a toccare la pelle delle donne, il corpo delle donne, bisogna avere una attenzione che non può essere stravolta dal caso politico. Invece ci siamo ritrovate questa volta su un terreno che noi di solito rifiutiamo. Noi siamo convinte che per avere dei buoni media, dei buoni giornali, con le colleghe e i colleghi si discute, non si va a colpi di denunce. Ci sono poi dei casi limite, come quello di Facci, che invece ci ha davvero obbligate a cambiare toni. Cambiare toni, denunciare all'Ordine dei giornalisti, lo stiamo facendo, una segnalazione al Consiglio di disciplina dell'Ordine della Lombardia, dove lui è iscritto, perché ci sono dei limiti che l'informazione, noi siamo convinte, non possa valicare, perché si va a fare male alla gente. A proposito di violenza di genere, quella di Facci, ma purtroppo anche di altri colleghi, ma in generale anche di altre persone, come dire, una dinamica conosciuta come vittimizzazione secondaria, cioè screditare la vittima. C'è una ampia letteratura su queste cose, dato che poi come giornalisti cerchiamo di riportare le cose alla normale relazione umana. Questo termine di rivittimizzazione secondaria, che è un termine di legge, cioè non si può mettere una donna che è già stata violata in condizioni di essere vittima più volte. Vuol dire che nei tribunali non può essere tartassata dai magistrati, non può essere tartassata dagli avvocati, ma significa che sui giornali non può essere tartassata da noi. E se tu fai anche solo delle interviste particolarmente insinuanti o dai giudizi particolarmente astrusi per cercare di giustificare le violenze di lui, stai rendendo di nuovo vittima la donna. La stai rendendo di nuovo vittima. Ma, e adesso passo all'oggi e non più a ieri di Facci, se continui a sfrucugliare nelle sue chat e nei suoi colloqui privati con le amiche. Questa ragazza di cui stiamo parlando è al centro di una buriana incredibile. Stiamo comportandoci tutte e tutti con lei malissimo. La questione di Facci è proprio un altro terreno. Ci sono dei nodi. Siamo convinte che se scrivi bene di una cosa, qualunque cosa, fai in pieno il tuo compito di informare. Articolo 21 della Costituzione. Noi abbiamo dei diritti di libera stampa, ma soprattutto dei doveri di libera stampa nei confronti delle cittadine e cittadini. Quando si parla di violenza, noi siamo tradizionalmente abituate e abituati a pensare dalla parte di lui. Lei era esasperante, lei era noiosa, lei telefonava mentre lui lavorava. Quando scriviamo queste cose, noi facciamo male alla donna assassinata o violata, ma facciamo male a una cultura. Imparare a scrivere dalla parte di lei, come tutte le volte in cui ci occupiamo di un incidente stradale o di una rapina, in cui non vai a giustificare il colpevole, a prescindere, imparare a raccontare i fatti come sono, probabilmente aiuta la Costituzione. Io uso questo parolone, l'articolo 3 che vuole la parità, l'articolo 21 che vuole la libertà di stampa, la equità fra donna e uomo. Per noi questo è un passaggio sostanzialmente culturale, ragionando con le colleghe e i colleghi. E va sempre a finire che quando vediamo questa sfilata di titoli che fanno venire la pelle d'oca, tutti assentono e dicono dicono sì, forse bisogna starci più attenti. Infatti volevo farti una domanda proprio sulla cultura, in particolare sul nostro lavoro, perché insomma sappiamo che il giornalismo italiano è abbastanza giustizialista, tranne diventa garantista, diciamo, quando si tratta di violenza maschile sulle donne. Quindi scontiamo ancora un retaggio patriarcale? Il 1981 sembra una data antichissima, in realtà sono 40 anni fa. Significa che in tutte le famiglie italiane c'è una memoria, come dire, dentro le viscere, di una norma che era il codice Rocco, secondo il quale se ammazzavi la moglie o la figlia o la sorella perché eri geloso, la tua pena veniva scontata. Non solo, se tu stupravi una donna ma poi la sposavi, non pagavi pegno, e se lei non voleva sposarti, fatti suoi. In un caso e nell'altro avvinceva l'onore dell'uomo tradito, l'onore del padre, il padre, sto benedetto patriarcato, che non aveva più problemi per il fatto che la figlia fosse stata stuprata. Ora, questa cosa qua, che per fortuna è stata spazzata, ma nel 1981, cioè ieri l'altro, in qualche modo, secondo me, è rimasta sotto la nostra pelle. Io dico un'altra data: nel 1996, per la prima volta, una legge ha deciso che stuprare una donna non era più reato contro la morale, ma reato contro la persona. Vuol dire che fino alla vigilia del 2000 le donne stuprate non erano riconosciute in quanto donne violate. Queste cose, uno pensa, stiamo parlando della preistoria, non tanto. Cioè c'è uno stereotipo, un linguaggio da bar, si è sempre fatto così, che va davvero debellato nelle nostre coscienze.